nessuno chi, niente nessuna cosa, cosa mi potrà fare incazzare. Niente nessuno chi, niente nessuna cosa, cosa mi potrà fare incazzare. Risuona come un mantra nella mia testa, lasciatemi stare. Niente nessuno oggi mi farà incazzare. Tu puoi farti meglio, non ti demoralizzare. Fa la fila e prova a farmi scazzare. Faccio un respiro profondo e sento che sono vivo. Presente mi rifugio in un pensiero positivo, ringraziando ciò che ho e quello che sono. La mia forza interiore mi darà il perdono. Passa più tempo con te stesso, impara a conoscerti. Rimanere solo può solamente scuoterti. Io lo faccio lavorando sulla tua stima. Parlo poco perché perdo tempo a scriverlo in rima. E quando ne ho bisogno piango, non mi vergogno. Le lacrime dicono che sono un uomo in fondo, pronto a ripartire per realizzare un sogno. Torno presente e faccio un respiro ancora più profondo. Niente nessuno chi, niente nessuna cosa, cosa mi potrà fare incazzare. Niente nessuno chi, niente nessuna cosa, cosa mi potrà fare incazzare. Sono migliore di così e di quello che sembro. Sarò migliore di quello che c'ho dentro. Sono migliore di così e quello che sembro. Sarò migliore di quello che c'ho dentro. E sono un uomo migliore quando vivo d'amore, minuto d'amore, in un mondo d'amore. Sarebbe tutto migliore. E sono un uomo migliore quando vivo d'amore, minuto d'amore, in un mondo d'amore. Sarebbe tutto migliore. Respiro la vita e prendo consapevolezza della mia forza interiore ed ogni minima certezza. Mai sentito superiori, abbatto l'incertezza. Ho visto superiori non essermi all'altezza. Tormentati da un mostro che pian piano li divora. Iniziate il cambiamento, iniziatelo ora. Aprite la mente diventando trasparente. Sincerità uguale, vivi meglio con la gente. Guardando il passato, dritto negli occhi. Fatevi coraggio e ditegli, a me non mi tocchi. Visto che qui si muore più dentro che fuori. Vivere a colori, per sentirsi migliori. Delle difficoltà ma arrendersi a priori. Combatti te stesso, come supereroi. Regalandoti un presente, senza più paure. Fallo per te chi ti circonda, le generazioni future. Niente